Sì. Mi dici quando possiamo andare? Vai. Vai. Buonasera a tutti i nostri radiotelespettatori. Siamo su Radio Arcinerus insieme al presidente Raffaele Fagiano. Buonasera, Buonasera a Raffaele. tutti. Stasera una tematica molto importante. Parleremo di immigrazione, questa nuova puntata di Tandem dal titolo Refugees. Abbiamo con noi due personaggi importanti che hanno vissuto e continuano a vivere sulla propria pelle questa situazione. Abbiamo con noi la dottoressa Lulieta Ciobanai, coordinatrice della diaspora presso l'ambasciata di Albania a Milano. Buonasera Lulieta e grazie di essere qui insieme a Grazie, buonasera. noi. E Don Giusto della Valle, il sacerdote di Rebbio, frazione di Como, che da tanto tempo si occupa di migranti e di rifugiati e soprattutto di persone in difficoltà. Buonasera, Don Giusto. Buonasera, buonasera. È un fenomeno attuale, molto importante, che parleremo questa sera e soprattutto i nostri telespettatori possono tranquillamente intervenire attraverso la chat di YouTube. Infatti siamo anche in diretta su YouTube. Ci darà una mano Raffaele. Vero Raffaele? Quindi io vorrei subito incominciare a parlare di questa situazione perché l'immigrazione, come ben sappiamo, è un fenomeno che si sta verificando tutt'oggi e soprattutto un'emergenza. Leggevo l'altro giorno i vari news, i vari quotidiani, e dopo soprattutto la guerra che è successa in Afghanistan, ci sono tante persone che continuano a raggiungere il nostro paese. È un'emergenza che non riguarda soltanto l'Italia, ma il mondo intero. Infatti, ci sono anche molti profughi che dalla Sud America cercano di raggiungere gli Stati Uniti, così anche in Polonia, dalla Bielorussia sono tantissimi rifugiati che lasciano il proprio paese per raggiungere dei luoghi più sicuri. Vorrei incominciare proprio da Lulieta Ciobanai. Lulieta, tu sei, come dire, hai vissuto sulla tua pelle questa situazione. E adesso sei, come si dice, un avvocato, una persona che è affermata dopo tanti sacrifici. E nel 1991, il 7 marzo del 1991, eri, come si dice, su quella nave che poi ha raggiunto le coste pugliesi. Quindi ti vorrei chiedere, cosa si prova a sentire questa parola e quali sono, diciamo, le sensazioni. Tu che hai vissuto sulla tua pelle, sulla propria pelle, tutto questo. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. È un tema molto importante questo dell'immigrazione negli ultimi tempi, poi in questi 2 anni veramente è stato uno dei periodi più difficili per l'immigrazione, ma 30 anni fa era lo stesso molto difficile. La foto di quella nave che in questi ultimi, da agosto, ha fatto un po' di scalpore, che è uscito fuori la foto con la nave con gli albanesi ad agosto che ha fatto 30 anni. E mi chiedevano tutti che cosa ci provavo a vedere quella foto, però ho detto questa è una foto che non appartiene solo all'immigrazione albanese di 30 anni fa, è una foto che lo vediamo tutti i giorni, cambiano solo i colori o le persone da dove vengono, ma è un'immagine che vediamo tutti i giorni in ogni parte del mondo. Però personalmente 30 anni fa quel ricordo non. Penso che anche se vivessi altre 2 vite, anche 3 vite, nessuno di noi dimenticherà mai quei giorni. Poi adesso la gente è più cosciente di dove va e che cosa aspetta, cosa. Invece 30 anni fa noi venivamo da un regime, uno dei più duri nei Balcani, il regime del dittatore Hoxha. E praticamente tu non è che sapevi cosa lasciavi, ma non sapevi cosa aspettarti e se tornavi indietro cosa ti aspettava, se potevi, cosa ti aspettavi se tornavi indietro. Noi ce l'abbiamo fatto a liberarci da quel regime, però quando siamo usciti da lì l'Europa aveva le porte ancora chiuse. Quello che sta succedendo adesso, praticamente l'Europa vuole, il mondo intero vuole che ci liberiamo da dittatori, da persone di corruzione e di tutto, però non è preparata a un flusso migratorio, non è preparata a preparare, perché non è un discorso solo dare la possibilità di cambiare i governi, ma dare possibilità di far lavorare o di, nel momento che cambiano i governi, devi essere preparato a quello che questa gente passa in quei momenti. Ad Afghanistan sta succedendo, praticamente leggi i giornali, i bambini che si vendono per poter sopravvivere, le donne incinte, praticamente è una cosa che. Allora, quella foto di 30 anni fa ha un significato piccolo nel confronto di quello che è successo in questi 30 anni. Allora fa male, e chi l'ha passato è una cosa che sente, ma anche se lo posso descrivere, io in tutti questi anni con la pena me la cavo anche ogni tanto a descrivere, però non è facile. Ho letto una poesia, una mia amica poetessa questi giorni, che in una scuola che ha aperto ad Ortona, ha letto una poesia di questo che ha provato lei in questi 30 anni, è come se l'avessi scritto io, perché ogni cosa l'abbiamo vissuto tutti insieme. Allora è un discorso molto particolare nel descrivere che cosa stanno passando queste persone a non avere il sempapié, senza carte, è una cosa molto, molto, molto dura. È difficile Sono, veramente. credo che siano dei sentimenti interiori che, come si dice, che indescrivibili, cioè, perché Anche comunque. se usare la penna o la testa non riesci, perché non, rimane comunque scolpita. Io ho detto, vivrò anche tanti anni, vivrò, però non neanche alla persona più presa su quella nave, che cosa è successo dopo, che cosa ho dovuto subire negli anni, quando pulivo le case, quando facevo di tutto, di più. Nessuno può descrivere. Poi dopo, quando dovevi aiutare i tuoi, perché comunque l'immigrazione è questo, non è solo che tu ti salvi e non ti giri la testa indietro, non lo fa mai nessuno questa cosa, perché chi scappa ha coraggio. Allora il coraggio lo dimostra anche aiutando quelli che lascia indietro, è quello che noi abbiamo fatto in questi 30 anni, quello che faranno tutti quelli che faranno quello che abbiamo fatto noi, faranno così, avranno sempre una testa indietro, avremo sempre una carta d'identità che ci aprirà delle porte, ma che ci chiuderà delle altre porte. È una cosa un po'. Infatti adesso voglio subito, comunque sono delle parole molto toccanti perché che dovrebbero far riflettere anche a chi di dovere. Noi sappiamo che, come si dice, è un fenomeno, come lei ha detto, che sicuramente interessa tanti, perché cioè è proprio l'Europa che si deve occupare di queste persone che scappano per raggiungere un luogo sicuro. Allora adesso vorrei passare la parola a Don Giusto della Valle che è impegnato in prima linea attraverso la sua associazione proprio Rebbio ad offrire assistenza a tanti rifugiati, ma non solo ai rifugiati, anche a tante persone che hanno bisogno. Gli ultimi delle volte, la maggior parte delle volte vengono definiti queste persone che sono in una situazione drammatica, quindi sia italiani e anche rifugiati. Don Giusto, Como è un territorio di confine. Com'è in questo momento la situazione e come lei sta affrontando e continua ad affrontare tutte queste problematiche? Grazie. Beh, Como è una piccola città di frontiera, che conta circa 85.000 abitanti, con una presenza stabile di circa 13.000 migranti. Stabile, quindi composta da famiglia, arrivata in questi anni, quindi una città multietnica in modo sodo, e conosce poi un numero abbastanza alto rispetto ad altre province d'Italia di richiedenti asilo, arrivati in numero consistente in città di Como e in provincia di Como in questi anni, che sono in genere giovani provenienti dall'Africa subsahariana e Quali dall'Asia sono, Don Giusto, asiatica, quali sono le dall'Africa. nazionalità che spesso Cioè, diciamo, quali sono comunque la maggior parte dei profughi come nazionalità? Cioè, da quali luoghi provengono? Richiedenti asilo che sono un po' da ogni dove, ecco, dal Gambia, al Mali, alla Nigeria, Pakistan, Bangladesh. Invece le nazionalità residenti in modo più stabile sono Filippine, sono la Turchia, ecco, c'è un folto gruppo di turchi, molto ben organizzati a Como e via via, ecco, il Marocco, la Tunisia, lo Sri Lanka, ecco questi gruppi. Poi succede, essendo città di frontiera, in questi anni, si sono verificati degli episodi di respingimento dalla Svizzera di profughi libanesi, eritrei negli anni 90, nell'ultimo grosso afflusso dal 2016, eritrei soprattutto, che non essendo lasciati passare in Svizzera per raggiungere la Germania, resta un po' imbogliato in questo imbuto che diventa la città di Como, di conseguenza, ecco, non per scelta delle autorità italiane, ma per scelta delle autorità elvetiche, di respingere poi le persone. È successo in piccola scala, ecco, settimana scorsa, che una mamma eritrea con i suoi due bambinetti di 2-4 anni fosse respinta dalla Svizzera, senza accogliere la Quindi richiesta ci sono anche dei d'asilo, minori perché comunque in questo, diciamo. sono dei minori, ecco, c'è un accordo tacito tra la Svizzera e l'Italia per questi rimpatri, per cui arriva una mamma con bambini piccoli che ha diritto a essere accolta, a vedere accolta la sua richiesta d'asilo e collocata in un centro di accoglienza temporanea in Svizzera, invece spesso la si rimanda indietro, ecco, senza troppo discutere. Quindi Como accoglie anche poi che da Svizzera vengono rimandate indietro, oppure persone che arrivano a Como nel tentativo di passare poi dall'altra parte con l'aiuto di passatori oppure con i propri mezzi. Ecco, Como vive un po' questa attitudine, e che dire, il discorso poi diventa grande, ecco, una città che ha capito il suo ruolo storico oppure non l'ha capito, ecco. Talvolta c'è l'impressione che la città l'abbia capito, perché dal basso c'è tanto, tanto movimento intelligente, ecco, di ospitalità. Si fatica con le istituzioni, si fatica notevolmente con le istituzioni, basti dire che i luoghi, le strutture destinate all'accoglienza in questi anni, anziché aumentare, sono stati E fermi. volevo passare la parola a Lulieta. Lulieta, Don Giusto ha detto che comunque non è facile collaborare con le istituzioni. Quali sono state le prime difficoltà che hai riscontrato quando, e avete riscontrato, parliamo nel plurale perché eravate in tanti, quando siete arrivati in Italia? Cioè, quali sono stati diciamo, i primi problemi? C'è stata una grande accoglienza. Io mi ricordo Sì, che a c'è marzo c'è stato stata il una sindaco di riunione. Brindisi che si rese subito disponibile e ci fu una grande accoglienza. Quindi c'è stata una bella accoglienza anche dal popolo italiano, vero? Assolutamente, assolutamente. Poi dopo nulla che dire per il popolo italiano, è stato veramente molto accogliente. Poi dopo, subito dopo hanno fatto la legge Martelli e abbiamo dovuto tutti trovare un lavoro, tutto quanto. Mi ricordo che È stato molto difficile, è stato, come dire. parlando di Don Giusto, perché a San Biagio di Osimo, dove io ho trovato lavoro da Brindisi, poi sono andata a Trani, poi dopo sono andato nelle Marche a San Biagio, e il prete di San Biagio ci ha dato anche ha trovato delle case per potersi stare, e a me ha trovato lavoro come sarta in una sartoria di due donne, che ringrazio comunque perché si sono rese disponibili a farmi i documenti. E fortunatamente sapevo usare la macchina da cucire, ho cominciato subito a lavorare, poi facevo babysitter, facevo la donna delle pulizie, perché comunque non bastava e dovevo anche mandare soldi in Albania. Abbiamo fatto due o tre lavori, poi ho fatto anche l'imbianchino durante l'estate praticamente con lì della zona che faceva l'imbianchino a imbiancare le scuole di Ancona. tutta l'estate, quando la gente andava al mare, io il mare di Ancona l'ho visto dopo, molto dopo, quando 10-15 anni dopo, perché i primi anni non ho potuto neanche vedere che Ancona aveva un mare, anche se io sono partita da Durazzo, il mare l'ho visto molto dopo, i primi anni non sapevo dove era lunedì e dove era domenica. Però dobbiamo anche ricordare ai nostri radiotelespettatori che che tu adesso sei un avvocato, quindi cioè, hai anche studiato. Quando sono arrivata avevo finito l'ingegneria edile, poi dopo strada facendo ho dovuto cambiare mestiere e tutto quanto, ho studiato anche giurisprudenza, ho finito anche la laurea di giurisprudenza, però quando sono partita facevo l'ultimo anno dell'università ingegneria edile e poi da lì ho cominciato tutto, ho fatto tutto un... Sì, io sono una che l'ha fatto, però comunque lavorando 20 ore al giorno, non è che praticamente nei paesi dove ho vissuto i primi anni si ricordano della ragazza che faceva 1.000 lavori per andare avanti, le donne del paese mi lasciavano da mangiare sulla porta perché io lavoravo tantissimo praticamente. Allora non è una cosa, quello che abbiamo fatto tutti, non è quello che sono adesso che mi descrive, che do come sono arrivata, praticamente non sono mai arrivata, praticamente la maggior parte di noi ce l'ha fatto perché ha lavorato duramente, si è messo a lavorare senza vedere che cosa ha fatto. E tutto, non è stato facile, praticamente arrivare qua giuro che non è stato facile. Non parlavo neanche, mentre adesso gli albanesi parlano, io poi a scuola avevo studiato il francese, era più facile tutto quanto. Sì, abbiamo imparato velocemente a parlare l'italiano, ma 30 anni fa era tutto diverso, tutto. Giulietta, ti volevo chiedere una cosa. Don Giusto prima ha parlato che molti cercano di raggiungere la Svizzera. Tu avevi pensato di raggiungere qualche altro paese, cioè dall'Italia? Dall'Italia no, ma Volevi dal sud al raggiungere. nord sì. Dal sud Sì, quando cioè, siamo però arrivati. hai deciso comunque di rimanere. Avevi già deciso di rimanere in Italia, non di andare in un altro stato, Sì, no? ma Questo no. più che altro per legami familiari sono rimasta, ma sinceramente anche 30 anni dopo non andrei, se devo andare via dall'Italia tornerò solo in Albania. Sai, Quindi sono anche segnali. questo ci fa piacere, queste parole comunque ci rincuorano perché, come dire, adesso c'è anche una grande comunità in Italia albanese, c'è una bellissima integrazione e quindi noi ne siamo fieri anche della comunità albanese in Italia, assolutamente, che ha contribuito e contribuisce comunque allo sviluppo sociale del nostro paese. Volevo ritornare da Don Giusto. Abbiamo parlato di lavoro, no? Abbiamo parlato comunque di impiego. Riescono questi ragazzi, queste signore a riuscire a trovare un impiego giusto per sopravvivere? Riescono ad inserirsi? Perché il lavoro noi sappiamo è fondamentale. Lo diceva prima anche Giulietta, io ho fatto di tutto, quindi come si dice, quando uno arriva in un posto, il lavoro è anche un modo per interagire con le persone, un modo di socializzare, di costruire dei legami sociali, al di fuori comunque di una retribuzione economica. Quindi volevo chiedere, Don Giusto, da questo punto di vista, com'è la situazione? Allora, il lavoro, io dico il mio punto di vista, cioè chi ha una volontà ferma, il lavoro lo trova, e ha i documenti a posto, il lavoro lo trova, ecco, occorre avere un'intelligenza, una volontà molto ferma, molto netta, ecco, poi il lavoro si trova, ecco, in questa estate rispetto al passato si sono riaperte per fortuna tutte le attività ristorative del turismo, per cui alcuni ragazzi, anche i nostri ospiti, sono stati assunti in questi ambiti legati alla ristorazione, al turismo, ecco, qualcuno con contratti decenti, altri abbastanza sfruttati, ecco, nelle cucine degli alberghi c'è ancora parecchio, parecchio nero, diciamo così, oppure tante ore e poi si è un po' Però ci sono anche sottopagati, ecco, ragazzi, altri trovano. dico comunque ci sono i ragazzi che vogliono lavorare, che comunque accettano tutto, quindi cioè, sono ragazzi comunque che Come hanno voglia di fare tanto e vogliono rimanere. Certamente, poi c'è un buon percorso formativo di avvio al lavoro fatto da alcune realtà della città di Cone, si fanno dei corsi preparatori al lavoro con una realtà che si chiama Cometa in particolare, con un buon rapporto con l'ENAIP e con altre realtà che si formano attraverso i tirocini al lavoro, poi riescono ad inserire in ambiti lavorativi in modo serio. Ecco. Volevo anche fare una premessa, ecco, se mi Prego, prego. permettete. Parla di migrazioni, che occorre un po' guardare anche i dati demografici. Un'Italia vecchia, vecchia tanto, la città di Como è una città molto vecchia, molto anziana, nascono pochi bambini, quindi bisogna poi fare i conti, perché l'Italia l'anno scorso sono morti circa 800.000 persone, sono nati, se non sbaglio, 404.000 bambini. Per il primo anno che la popolazione di migranti in Italia è in calo, occorre chiedersi, ecco, questo divario tra nati e morti, se qualcuno in più non è necessario che venga coperto da nessuno, però un paese vecchio è anche Certo, poco ma forte, io penso, Don Giusto, quello che sbagliato. lei fa è comunque un atto di grande nobiltà d'animo, perché, come dire, l'altro giorno leggevo un libro di Don Ciotti che ho voluto comunque questa sera portare con me, che è una lettera a un razzista del terzo millennio. Penso che lei lo conosce assolutamente, questo libro. È un libro, comunque, lei sa che comunque Don Ciotti è impegnato. Anche in non solo con la lotta contro la lotta alle mafie, ma anche comunque per quanto riguarda l'accoglienza. Spesso ha ribadito che il Mediterraneo è un Mediterraneo moribondo, dove le persone perdono la vita, e credo che siamo tutti esseri umani, quindi al di fuori di tutto dobbiamo garantire la vita, cioè dobbiamo dare alle persone la possibilità di raggiungere la terraferma. Perché tutti hanno il diritto di vivere, poi del resto uno poi ci può pensare, perché in effetti se ci spogliamo della nostra professione o di altre cose, noi siamo degli esseri umani che abbiamo gli stessi organi e lo stesso intelletto, cambia la lingua, cambiano i tratti somatici, dal punto di vista interno siamo esseri umani, dobbiamo essere trattati come esseri umani, vero Don Giusto? Lei la pensa come me, credo. Certamente, Cioè, ovunque l'uomo sia è identico, no? Poi ci si rende conto, dove vivo io, che siamo di tante nazionalità diverse, di religioni importante diverse, però si che ci vede sia il rispetto. patrimonio. Io volevo adesso ritornare da Don Luieta, perché si fa sempre più interessante il nostro discorso. E sono un tema molto toccante, perché cioè, adesso è facile parlarne dietro uno schermo, però, come si dice, chi vive sulla propria pelle questa situazione, come diceva prima, è inspiegabile, diceva Luieta, stava dicendo prima. Si parla spesso, c'è una frase infatti anche sul libro è citata, dei porti chiusi, cioè chiudere i porti. Cioè, che cosa pensa di questo? Che cosa pensi di questo, Luleta? Tu che eri su una nave e su quella nave c'erano 26.000 persone. E se noi dovessimo immaginare che quella nave, cioè se avessimo dovuto immaginare che quella nave non avrebbe potuto raggiungere, come dire, le coste. Quello che cosa sarebbe successo? Quindi 26.000 persone su una nave che raggiungono le coste pugliesi e, come dire, adesso invece si parla di porti chiusi. Cosa le fa pensare questa parola? Quando 30 anni fa praticamente abbiamo attraversato quel mare, io non sapevo se era la cosa più difficile. Essere morti sul mare, praticamente perché tutti sono state tante persone che non ce l'hanno fatto mentre saltavano per arrivare alla nave, mentre tra due navi si moriva dentro schiacciati, tra due navi praticamente. L'abbiamo visti, scusate, interrompo, l'abbiamo visto anche in Afghanistan, cioè gli aerei, abbiamo visto quell'aereo che è partito lì e stata la Infatti c'è BBC, no? stato nei nostri gruppi di Facebook, di social, che hanno fatto, un nostro artista Pace ha fatto un quadro tempo fa con una scala con delle persone con senza aereo e quella praticamente la stessa fotografia era identica a quello che noi abbiamo vissuto 30 anni dopo, praticamente vivendo. Io non saprei perché adesso penso di averne passato tanto, sono diventata più forte, più dura, più tutto, però in quel momento lì non sapevo se era più difficile morire praticamente sull'Adriatico o essere tornata indietro e morire lo stesso praticamente di morire lo stesso come persona, come senza futuro, praticamente morire sull'acqua del mare o morire perché sei tornata indietro era la stessa identica cosa. E io capisco cosa vuol dire per queste persone che fanno le attraversate, che non sono accolti da nessuno e sono come si girano, è come se un gioco, una giostra dove ti butti da una parte all'altra, come se fossi in un campo da tennis dove la palla gira da un campo all'altro e c'è questa nave in mezzo con tutti i mari intorno e nessuna terraferma. Se la vedi dal punto di vista proprio morale, nessuno di noi dovrebbe stare bene, ma neanche io che ci sono passata, dovrei fare qualcosa, tutti dobbiamo fare qualcosa, perché poi questa di Afghanistan o altre cose sono anche un po' storie che l'Europa e il mondo li ha voluti e ha lasciato dietro del orrore. Praticamente quello che sta succedendo adesso è veramente un orrore, è una cosa che è in un modo Quindi diciamo, lo scopo principale è tutto era quello di raggiungere la terraferma diciamo, per avere la vita, cioè perché tutto il territorio era irradiato dalla guerra civile, quindi si cercava in tutti i modi di raggiungere un posto sicuro per vivere. Quello era, come dire, il primo obiettivo che si voleva Vuole, raggiungere. ma per tutti adesso è tutto è una sopravvivenza di qualsiasi genere, ma si tratta solo di una sopravvivenza. E posso dire quello che ho detto prima: se devo andare via dall'Italia, torno in Albania. Nessuno, nessuna madre, nessun figlio, nessun genitore, nessun fratello, sorella se ne va via dalla casa se sta proprio bene a casa sua. Nessuno fa i sacrifici, perché nessuno di noi fa dei sacrifici o va via. Sì, puoi fare un esperimento, ma non lasci tutto perché stai bene, perché vuoi fare un esperimento, perché vuoi evadere un altro paese con dei figli in braccio che non sai neanche se li porterai vivi dall'altra parte. Nessuno. Quale madre potrebbe avere questo coraggio a prendere un figlio, prendere una barca e andare Certo, dall'altra certo. parte se non ha neanche la certezza che quel figlio lo porta dall'altra parte vivo? Nessuno. Le condizioni sono talmente disperate che la storia dei porti chiusi di 2 anni fa è veramente vergognosa. Io mi auguro che. Però ancora adesso ci sono chi si oppone a questo, cioè assolutamente. Cioè, come dire, c'è anche una campagna, soprattutto politica, che si schiera contro l'immigrazione. Cioè, come ho detto prima, come ha detto anche Don Ciotti, spesso il Mediterraneo è moribondo, quindi, come dire, siamo davanti a delle stragi umane e le persone vanno accolte. Come dire, io credo che sia come quando una persona ha un infarto cardiaco, ci troviamo davanti a una persona che un infarto cardiaco, la prima cosa che facciamo dobbiamo soccorrerlo, quindi non possiamo aspettare, cioè il tempo è breve, quindi ogni secondo è prezioso per salvare la vita umana. È la stessa cosa che credo sia il Mediterraneo, cioè dobbiamo garantire la vita a queste persone. Poi dal punto di vista politico si può anche ragionare quale dovrebbero essere le strategie, ma dare la vita è la prima cosa. Quindi penso che, come dicevi te, Lulieta, nessuno lascia il proprio territorio, cioè è già difficile andare via da una regione all'altra in Italia, figuriamoci perché si lasciano gli affetti. Quindi sono pienamente d'accordo con te, quindi speriamo che ci sia, come dire, che anche questo che stiamo facendo arrivi alle orecchie di competenza e capisca quanto è, come dire, quanto è difficile questo momento, perché è l'attualità, cioè l'immigrazione non finisce mai, come l'hai detto anche tu, cioè vedere quelle immagini sono immagini di adesso, sono immagini attuali. E volevo ritornare da Don Giusto. Don Giusto, abbiamo parlato dei mari che sono, cioè dei porti che sono chiusi, quindi, però anche la terraferma spesso si chiude, quindi le persone fanno fatica ad entrare in Svizzera, ma ci sono anche dei muri, ci sono delle nazioni che vogliono alzare questi muri e non vogliono che queste persone raggiungano queste, diciamo, queste terre sicure. Che ne pensa di tutto questo? Di fatto è la politica europea, no? di questi ultimi anni, lo si chiama il Mediterraneo allargato, cioè il voler portare il muro, la frontiera ai migranti nell'Africa subsahariana. Dimostrato, invito in tal senso a leggere il dossier di Nitrizia di questo mese. Molto, molto significativo, molto ben fatto al riguardo. Ecco, l'Italia, i paesi europei hanno una collaborazione militare, politica, economica con il Niger. Sappiamo che Agadez in Niger è la città da cui sono passati prima del 2015-2016 la stragrande maggioranza di coloro che sono arrivati anche in Italia. Dal 2016 una legge punisce con 30.000 euro di multa e con 30, fino a 30 anni di carcerazione, tutti coloro che ospitano o trasportano dei migranti ad Agadez. Ecco, queste misure, questo muro è stato eretto anche grazie, ma non ho capito, soprattutto col patrocinio dell'Italia che ha capitanato l'iniziativa. Quindi quando si parla di muri mi sembra chiaro che il muro è in Africa, certo anche sulla rotta balcanica, ma il muro principale che l'Europa, che l'Italia sta erigendo è in Libia, e nel Niger, è lì che si vuole fermare la gente, è lì che si mandano soldi per finanziare l'esercito, l'addestramento, le motovedette libiche con cui i migranti vengono respinti e sono spesso pagati dai fondi pubblici dell'Europa e da parte di fondi segreti sconosciuti nel nostro stesso paese. Qui il muro in Turchia, l'Europa ha dato 6 miliardi di euro in questi anni alla Turchia per tenere lì fermi i profughi siriani oltre, e poi sappiamo di questo muro che nei vari paesi della rotta balcanica vuole essere innalzato, ecco, con intensità. Ecco, invito a leggere Avvenire di domenica scorsa, che documenta i cimiteri sulle rotte balcaniche, i cimiteri senza nome, ecco, di lapidi senza nome, tanti migranti che sono stati trovati morti. Ecco, questa disumanità, Certo, certo. che poi non siamo di fronte a un'emergenza, ecco, se vogliamo parlare di dati, di numeri, non è vero che l'Europa è in emergenza migranti, non è assolutamente vero che l'Italia è in emergenza migranti. Gli afghani arrivati in Italia sono 4.000, mi sembra, i profughi arrivati, i richiedenti asilo arrivati ufficialmente via mare sono circa 50.000, tutta l'Europa, se non sbaglio, sono 77.000 persone arrivate finora in quest'anno, ecco, quindi sono numeri piccolissimi, non si può certamente parlare di emergenza né per l'Italia né per l'Europa. Volevo tornare da Lulieta. Allora, alcuni sono arrivati in Italia, cioè nel 1991 c'è stato questo grande esodo, cioè era stato soltanto l'inizio, poi comunque ci sono state altre traversate, credo. Gli altri che poi sono andati via in altri stati, come si sono trovati e come si trovano tuttora? Come è stata questa situazione dell'accoglienza? Perché Don Giusto parla di Europa, quindi come è stato in quegli anni tutto questo, diciamo, questo Allora, evolversi. continuo solo un attimo il discorso di Don Giusto, che quello che ha detto adesso, Scusa, che quello prego. che ha detto è vero. In questi giorni è uscito fuori il dossier per l'immigrazione in Italia. Praticamente i dati devono essere pubblicati da tutti i giornali, perché questo stereotipo che l'immigrazione porta via, che è quello che diceva Don Giusto, i dati non sono veri, non c'è un aumento dell'immigrazione, non c'è un aumento dal 2008 fino al 2021, non ci sono dei numeri da spavento o da far crollare l'economia di un paese, e neanche bisogna, e le politiche che si sono seguiti in questi anni, che sono quelli sbagliati, la burocrazia che è tutta lenta, che fa aumentare quell'angoscia di tutti i giorni per le persone, per tutto. Perché i dati, se questi dati vengano pubblicati, praticamente sono solo stereotipi, non sono dati da far paura. Quello che Don Giusto ha preso un discorso proprio che io dico da tanto, perché se vediamo, perché io per lavoro studio i dati per la mia comunità, ma non lo posso fare un discorso coerente se non lo studio anche in confronto a tutte le altre comunità, praticamente devo vederle non solo gli albanesi in Italia o in mondo, in Europa, ma anche con tutti. Allora, questi dati sono da rendere pubblici, non deve essere solo un libro di 400 pagine che lo dobbiamo avere noi come istituzioni, devono essere quattro pagine con quattro dati e basta. Devono essere dei dati, questi sì, li possiamo avere noi nelle nostre librerie per vedere, perché dopo dobbiamo parlarci, ma dei dati proprio di parlare praticamente così. E poi dopo torno alla sua domanda. Gli albanesi invece che sono negli altri paesi hanno avuto più facilitazioni che in Italia non hanno trovato per quanto riguarda il sistema scolastico o di lavoro, che hanno lavoro qualificato, perché un laureato in America, una volta che dà l'esame di lingua inglese e uno o due esami per la professione che è finito, entra a fare parte di un sistema scolastico, e fa un ingegnere come me o come mio marito, quando siamo venuti tutti e due, abbiamo dovuto rifare la scuola da capo perché il sistema scolastico italiano non conosceva. Questa cosa non succede, perché in Germania adesso, che vanno i medici, infermieri, operai qualificati, elettricisti, idraulici, una volta che hai la qualifica e parli la lingua, che è praticamente la lingua in tutti i stati diventa un punto di riferimento, poi dopo praticamente tu fai un lavoro qualificato. Allora, da questo punto di vista, gli albanesi negli altri paesi, escluso la Grecia, hanno più possibilità di avere anche le qualifiche, perché dopo il nostro emigrazione è diventato un po' economico, non è un discorso di migrazione, asilo politico o altro. Allora, questa cosa qua praticamente diventa, negli altri, è differente dall'Italia, a questo punto di vista. L'Italia non dà la possibilità, non li dà neanche per i laureati in Italia, nel senso, si dà meno, poco importanza alla testa, alla qualificazione. Un operaio, anche un operaio, non parliamo di ingegneri, ma anche un operaio qualificato in Germania, in Francia, in Olanda, in Danimarca, in Norvegia o in America, si paga diversamente che un operaio senza qualifiche. Quello che in Italia praticamente sono tutte stabilizzate con i sindacati, sono questi contratti nazionali, ma anche contratti nazionali che sono talmente occupati a fare una guerra tra sindacati o tra sindacati e governo per avere qualcosa in più, e nessuno pensa che devono aumentare gli stipendi o aumentare la qualità di vita Certo, delle persone. Nel senso, questa cosa posso ma dirlo, nel senso, dopo 30 anni mi sento molto italiana, allora questa cosa la posso dire. Giulietta, ti volevo chiedere, spesso c'è chi dice che chi arriva qui toglie il lavoro agli italiani. Ci sono state delle situazioni genere quando c'è Assolutamente, stato. però sempre per parlare di dati, sono 2 milioni e mezzo di stranieri in Italia su 5 milioni che sono occupati, praticamente sono gente che paga le tasse, sono gente che paga le tasse regolarmente e non possono essere per lo Stato un peso o per chi ruba il lavoro. No, il lavoro. Certo, anche perché comunque noi sappiamo che la comunità albanese ha favorito l'economia italiana, cioè ci sono tanti, cioè c'è stato oltre a un aumento demografico della popolazione che ha portato comunque a un benessere, anche un aumento economico, cioè assolutamente, perché ci sono tanti che pagano le tasse e che comunque si sono 40.000 integrati, imprese in vivono, tutta cioè c'è l'Italia, stato. 40.000 imprese sono i Sì. bergamaschi del futuro, dal punto di vista, sono delle aziende di costruzione che praticamente lavorano in tutta Lombardia, in tutta Italia, e sono è gente che paga, ma come gli albanesi, i marocchini, i rumeni, praticamente parliamo di cifre, se uno dice immigrazione, l'immigrato mi ha portato via il lavoro, ma l'immigrato non ha portato via il lavoro, sono da 5 milioni, la metà di loro lavorano, contribuiscono alle tasse e all'andamento economico di un paese, questi sono stereotipi. Poi dopo uno dice Certo. infermieri, se chiedono ancora infermieri, ma uno su tre infermieri in Lombardia è straniero. Ma non perché nessuno vuole fare più infermiere Certo. dagli italiani, sono dei mestieri che nessuno li vuole più fare. O sono 75.000 di servizi sanitari che fanno i lavori in ospedali, in tutto. Durante la pandemia sono i stranieri che hanno lavorato per di più e hanno dato la vita. Certo, ma poi c'è stato, durante la pandemia abbiamo visto anche una grande solidarietà di tutto il mondo, cioè siamo stati i primi comunque ad essere colpiti in Europa, l'Italia aveva un numero altissimo comunque di casi e non dimentichiamo che oltre Cuba c'è stata anche l'Albania che è venuta a darci una mano, ci sono stati, come dire, dei medici che proprio dall'Albania insieme al primo ministro in aereo hanno raggiunto l'Italia per darci una mano, quindi c'è stata una piena solidarietà. È quello che ci deve essere anche in questi casi, cioè noi dobbiamo comprendere che abbiamo davanti gli esseri umani e dobbiamo puntare a una vera e propria educazione, una vera e propria integrazione, cioè se attraverso l'istruzione, attraverso comunque, in primo luogo attraverso l'accoglienza, perché le persone che arrivano devono essere accolte. Volevo ritornare da Don Giusto. Ti volevo chiedere, Don Giusto, allora, com'è la situazione? Si fa fatica quindi che, come dire, ad integrarsi anche dal punto di vista lavorativo a Como? C'è della diffidenza, come dire, nel trovare lavoro, ma anche, che ne so, nel dare del lavoro a dei rifugiati? No, poi comanda su tutto, poi è il bisogno, no? Per cui se c'è bisogno uno Sì, però il assume fatto che, chiunque, come si no? dice, spesso si dice prima gli italiani, prima il lavoro agli italiani, tolgono il lavoro, c'è come dire, questa problematica. Non penso quanto dicevo Lidetta prima, cioè i dati nazionali dicono che le imprese dei migranti sono aumentate del 2% rispetto. C'è stato uno stallo nella creazione di nuove imprese lo scorso anno in Italia, un piccolo regresso, c'è stato un lieve aumento invece di imprese aperte da parte dei migranti, quindi vuol dire che il mercato ha dello spazio. Ecco, rispetto a dire prima i nostri, è demagogia pura, perché chi cerca una badante trova spesso una madre di famiglia, quarantenne, cinquantenne, ucraina, moldava o polacca, che è disponibile a fare la badante giorno e notte, non trova una donna italiana, ecco, per motivi vari, perché non tocca a me giudicare. Imprese edili ti trovano come muratori o come manovali oggi, a Como, muratori manovali sui 30 anni, non so se qualcuno ne conosce ancora uno, ecco, sono tutte persone Quindi c'è stata anche, che vengono da altrove. diciamo che, come essendo anche un territorio di confine, con il tempo c'è stata anche un'integrazione dal punto di vista sia lavorativo che sociale, quindi le persone che riescono a rimanere riescono ad integrarsi e anche a lavorare, quindi non c'è questo problema dell'accoglienza. L'accoglienza si potrebbe fare tranquillamente attraverso, credo, come dire, dei metodi giusti, diciamo un'accoglienza fatta bene, cioè, o no, lei che cosa pensa? Sì, un'accoglienza fatta bene, ma più che il lavoro, il problema, la discriminante per i migranti è la casa. Cioè, se sei straniero, contratto di lavoro a tempo indeterminato, se hai anche dei garanti, soprattutto se sei nero, è difficilissimo che ti venga data una Esiste casa. ancora questa, Non questo, è esiste. come che esiste in tutti i Cioè, casi, io mi insomma, ricordo ma che allora c'è stata nel passato una certa discriminazione anche verso il popolo meridionale, cioè lo sappiamo che ci sono state. Penso che, come dire, questa cosa sia stata superata, no? O c'è ancora questa? Si tratta di diffidenza, secondo te, Don Giusto, oppure è la realtà? discriminazione grave questa che c'è, per cui Cioè, delle persone, 2020, pur avendo 2021, credo siamo in un anno, diciamo, come dire, c'è cioè l'Europa, la cultura, internet, dovremmo, come dire, superare questi muri mentali, io così li definirei, quindi li definisco dei muri mentali, perché, come dire, se uno lavora ha bisogno di una casa per vivere, no? Qual è il problema a dargli una casa? il problema, questo è il problema, sei nero, hai un contratto di lavoro e la gente non te lo dà, non te lo dà, per cui bisogna girare, o te lo dà dopo lunghe fatiche. È vero che qualcuno ha fatto esperienze negative di locazione, ma questo è indipendentemente dalla provenienza geografica. La discriminante più grave per me in questo momento è il non dare casa che migrante, anche se ha tutte le garanzie per pagare l'affitto. Giulietta, ci sono state queste cose quando tu sei arrivata, che era difficile trovare casa? Hai La mia qualche... prima casa era il garage era un garage a San Biagio. La mia prima casa era una stanza con un Capito. bagno e una specie di lavandino. Cioè, tutto diciamo, da sola, quindi, come dire, piano piano sei riuscita. È stata un'impresa, però siete anche un modello di vita, tu e tuo marito, che, come dire, siete un esempio anche Sì, per, come me non solo anche. per il popolo. Ero ad Ortona l'altro giorno perché hanno aperto, anche se una comunità piccola dei albanesi della ultima generazione, hanno aperto una scuola di lingua albanese a Ortona. Il sindaco mi aveva invitato, sono andata, erano 57 ragazzi iscritti. Poi la sera con le ragazze dell'associazione, con un po' ci siamo andati a mangiare e ci siamo ritrovati donne di 52, 55 anni, 60 anni, che raccontavamo i 30 anni perché avevamo quasi lo stesso percorso dal 91 e poi la maggior parte era anche molto di Durazzo, da dove sono partita io. Praticamente se raccontava uno, continuava l'altra come se continuasse un discorso di vita che abbiamo fatto tutte insieme, di fallimenti, di dolori, di gioie, però che alla fine raccontiamo tutti con un filo di tristezza che ci porteremo via sempre. Per questo che io mi auguro che la seconda generazione, io sono una artefice che voglio che i ragazzi studiano l'albanese, tengono comunque legami con il proprio paese dei genitori, ma non perché devono, non la vedo come una cosa di nazionalismo, ma solo perché devono accettarsi per quello che sono, perché noi per farci accettare abbiamo dovuto combattere tanto, loro invece hanno la possibilità di farcelo, ma parlare la nostra lingua, conoscere la nostra storia, la cultura, li farà solo diventare un po' più completi, perché comunque avranno un'arma in più per poter andare avanti, diventeranno sempre più forti. Io penso che l'integrazione è anche questo, avere qualcosa di personale, di radici proprio nel sangue, perché questa cosa. E dopo 30 anni mi posso, Giovanni, siamo comunque a raccontare le tristezze e non le abbiamo Anche dimenticate. perché noi sappiamo che abbiamo in Italia abbiamo delle zone dell'Italia, in alcune regioni d'Italia, come in Calabria, in Basilicata, anche in provincia di Avellino, dove io sono, da cui io provengo, dall'Irpinia, ci sono dei paesi dove si parla comunque la lingua albanese. Quindi significa che c'è stato sempre un, come dire. Come dire, sono stati dei popoli che si sono mossi e che si sono spostati, quindi assolutamente. Cioè, prima, solo che adesso ci sono comunque i media e tranquillamente si riesce comunque a vedere queste persone che arrivano, però fin dall'antichità sappiamo che l'Italia è stata come dire, è stata una società che è cresciuta. Grazie anche all'influenza di tanti popoli che poi hanno colonizzato l'Italia, come in Sicilia gli arabi, come dire, i greci con l'antica Grecia che hanno colonizzato la zona della Calabria, la zona grecanica. Quindi, come dire, questa paura comunque dell'arrivo di altri popoli. Io credo che sia inutile, effimera, assolutamente. Anzi, io penso che l'obiettivo principale sarebbe quello proprio di cercare attraverso in tutti i modi, attraverso tutti i mezzi, come dire, come un mezzo potrebbe essere anche l'educazione, l'istruzione, un'integrazione vera e propria. Vero, Don Giusto? Quindi io ti volevo fare una domanda, Don Giusto. Tu hai parlato anche di minori, vero? Quindi arrivano questi bambini e poi riescono comunque ad inserirsi dal punto di vista scolastico, cioè com'è questa situazione? In genere chi arriva da minore accompagnato, cioè con il proprio genitore, ecco, entra nel circuito scolastico normale, ecco. Ovviamente ha bisogno di fare dei corsi di lingua italiana preparatori, si iscrive al CPA, partecipa a delle scuole di italiano per stranieri organizzato da varie associazioni, come ce ne sono parecchi. In tal senso poi entra nel circuito ordinario, con delle fatiche certamente, però in genere ce la fanno. E col problema invece quando uno arriva da sedicenne, diciassettenne, diciottenne in Italia, allora è molto più difficile inserirsi nel sistema scolastico, oppure quando ci arrivi non so, tanti casi di minori accolti in comunità per minori stranieri non accompagnati arrivano magari a 16 anni, 17 anni, qualche mese, per cui non riescono ad entrare nel circuito formativo classico, per cui restano lì ai margini. Quindi c'è tutta questa fascia di minori già un po' avanti in età che resta tagliata fuori dai percorsi formativi, allora lì il problema c'è ed Ma ci è sono anche tanti anche grosso. minori che arrivano da Anche soli, diciamo, no? Che sono proprio soli. In questo caso. ci sono minori che arrivano da, noi abbiamo accolto pakistani, egiziani, dal Bangladesh, qualche raro dall'Albania, che arrivano da soli, sì. Poi tutti magari soli non sono perché hanno in giro qualche parente, a volte è troppo comodo Certo. far finta di essere soli. Entrare poi più facilmente nei percorsi della legalità. Però ecco, il problema formativo educativo secondo me c'è soprattutto per questi minori che numericamente non sono tanti, minori stranieri non accompagnati, che non riescono a entrare nel circuito formativo e per i quali le comunità d'accoglienza alcune comunità fanno molto poco per la loro istruzione, per la loro formazione. Poi cosa avviene come per la città di Como? Che il neo maggiorenne, cioè ai 18 anni un giorno, il comune non si fa più carico del pagamento della retta alla comunità che ti accoglie, per cui ti trovi strada. Non c'è stato un lavoro preparatorio precedente, 18 anni un giorno, ti trovi poi strada. Ecco, noi stiamo accogliendo dei neo maggiorenni, ne stiamo accogliendo 5, non si sapeva dove collocarli. Chi ci pensa all'educazione di diciottenni, no? Se fossero nostri figli, cosa fare? Ma questo è un problema, una fatica, una difficoltà. Con la parte nostra, con tanti altri, si cerca un po' di tamponare questa situazione con dei percorsi formativi di lingua italiana, comprensivi, e percorsi di avviamento, tirocini di avviamento al lavoro in vari ambiti, della ristorazione, alberghiero in generale, dell'agricoltura anche in parte, ecco, in quei settori dell'artigianato, che i mobili qui ci vanno ancora bene nella zona del Canturino, in quei settori che hanno delle potenzialità. Però ecco, c'è un vuoto dal punto di vista formativo, soprattutto per questa fascia di Va cui hai bene. parlato. Raffaele, tu che ci stai ascoltando, che cosa? Sì, ma c'è qualcuno, qualche domanda da parte dei nostri telespettatori? Nessuno. Tu che ne pensi di tutto questo? Hai ascoltato sia Don Giusto che Giulietta? Poi tu vivi a Como da tanti anni, quindi Io conosco anche io abbastanza, non anche così. Don Giusto. Sì, no, nel senso, non tutte le parti che Don Giusto ha illustrato questa sera, che sono interessanti anche per me. Bisogna lavorare insieme, sì, con la comunità, non è che bisogna iniziare a capire le persone, quello che vogliono fare e poi insieme andare avanti. E soprattutto quello che diceva anche l'altro giorno Don Giusto, quando si prendono degli accordi vanno mantenuti. Siamo quasi, diciamo, al termine, ci abbiamo, come si dice, però vogliamo, come dire, provare, cioè cercare anche di trovare delle soluzioni. Si parla spesso anche di corridoi umanitari, sono dei progetti che la Caritas ha stipulato, sta facendo, dei bei progetti. È stato anche celebrato il giorno del migrante, mi ricordo il giorno del rifugiato, chiedo scusa, e è stato, diciamo, comunque celebrato a Piazza San Pietro. Ha detto anche Papa Francesco che bisogna accogliere, c'è bisogno di accogliere. Che ne pensi tu, Don Giusto, di questi corridoi umanitari? Una soluzione legale al desiderio di migrare, ecco, una piccola soluzione legale che tocca piccoli numeri, ma estremamente interessante. Ecco, la questione di fondo è il diritto a migrare, il diritto ad andare altrove, cercare fortuna, che vale solo per qualcuno. Gli italiani all'estero che si sono spostati l'anno scorso dall'Italia per andare a lavorare stabilmente all'estero erano circa 130.000, molti meno quelli arrivati in Italia, che arriva in Italia e si arriva ancora sui Quindi barconi, tu cioè in pensi, Don Giusto, situazioni che cioè, il di. corridoio umanitario non potrà comunque risolvere il problema dell'immigrazione, soltanto, come dire, un mezzo che può, come dire, giusto dare una mano, però non è che potrebbe risolvere il problema del tutto, no? Può essere secondo me un mezzo intelligente da allargare, ma il discorso di fondo, parlo da italiano e dire siamo un popolo che invecchia sempre di più. Cosa facciamo? Va bene così? Saranno i robot ad assisterci in futuro a far l'asfalto nelle strade, tutto sarà robotizzato, per cui va bene restare una popolazione vecchia. Cosa facciamo per dire che politiche dato la natalità alla famiglia italiana o chi vive in Italia, di quale politica migratoria l'Italia vuole. Per me la questione di fondo è qual è la politica migratoria che l'Italia vuole portare avanti. Per il momento, attualmente le migrazioni in Italia era solo subite, non le ha mai pilotate, anche perché il decreto flussi poi non viene usato, viene attuato quando la frutta quasi già caduta dalla pianta, si riusciva a ingaggiare la gente per Anche perché noi vendere sappiamo, qualcosa. giusto, che molti comunque si trovano in Libia, nei lager libici, quindi subiscono delle torture, cioè è difficile raggiungere il corridoio umanitario che in questo caso si troverebbe in Niger, quindi l'ideale sarebbe quello comunque di scappare, perché lì si scappa, come prima diceva anche Lulieta, noi non sapevamo dove andare se tornavamo indietro, cioè se avessimo tornato, comunque avessimo, come dire, cioè se non avessimo avuto la possibilità di, diciamo, di raggiungere le coste pugliesi, saremmo rimasti in mare oppure saremmo rimasti indietro e comunque sarebbe stata la stessa cosa. Quindi, come dire, c'è anche una, tra virgolette, una corsa ad aggrapparsi alla vita, no? A raggiungere il primo posto, il primo luogo sicuro per la propria vita, no? Vero, Don Giusto? Ecco, questo è uno dei motivi che spinge a migrare, in Afghanistan è un caso evidente, ma poi da noi arrivano pochissimi, no, che scappano dalle guerre, dalle carestie, dalle alluvioni, il grosso delle persone si sposta all'interno del proprio paese o in paesi limitrofi. Allora un discorso è come accogliere chi scappa da situazioni di violenza, di persecuzione, di alluvione, di caso ambientale, una parte del discorso, l'altra parte del discorso dice noi avremo bisogno di forze nuove, di energie nuove per la nostra vecchia Italia. Quindi dove andiamo a cercare queste forze? Io penso che la risposta sia l'accoglienza delle famiglie di migranti, non al singolo migrante, ma delle famiglie che arrivano con i propri figli, che entrano nel sistema educativo italiano e crescono in un percorso formativo già da piccoli. Ecco, secondo me sono due discorsi diversi, come accogliere chi scappa e come pensare al futuro dell'Italia in termini di posti Sei lavoro d'accordo, attivo. Lulieta, con Don Giusto? Sì, bisogna fare. Bisogna praticamente legalizzare tutto, fare in modo, alleggerire le pratiche burocratiche, ricongiungimenti familiari. La sanatoria dell'anno scorso è ancora in alto mare. La burocrazia è molto, molto, molto lenta. Se tutto questo non si alleggerisce, saranno sempre comunque problemi e sempre parole, non faremo mai niente. Perché uno dice ci sono le quote di quest'anno, sì, ma ancora sono le quote dell'anno scorso, c'è la sanatoria ancora dell'anno scorso. Praticamente in una, sì, capisco anche la pandemia e tutto quanto, ma c'è stato sempre così questi rallentamenti. Allora, se tu vedi che dall'altra parte le istituzioni non hanno questa voglia di chiudere, di fare e aumentano le richieste per fare un ricongiungimento familiare, Don Giusto lo sa meglio di me, che servono le case con gli impianti elettrici, con gli impianti idraulici, con tutte le condizioni abitativi, aumentano le richieste per fare ricongiungimenti familiari e praticamente non avremo mai un discorso leggero, siamo molto, molto indietro. Io spero, perché con la chiusura dei discorsi del G20 sono stati presi anche la causa dei migranti, è stata presa in considerazione e hanno sottoscritto praticamente. Adesso vediamo se queste parole non rimangono solo sulla carta. Le politiche nuove europee devono essere le politiche a livello un po' più allargato, non. Certo. Una domanda mi sono dimenticato di fare, che è anche un aspetto molto importante. Prima abbiamo parlato anche di sanità. Quando siete partiti 26.000 sulla nave, ci sono stati anche dei problemi sanitari, vero? Quindi anche questo è un aspetto che non va sottovalutato. C'è bisogno di dare un'accoglienza dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista sanitario. Ma questo è sempre un problema. È stato, guarda Giovanni, È stato veramente brutto. Esatto. È stato Lo so. brutto e penso che non è cambiato niente in tutti questi anni. È sempre brutto per tutti. Per chi arriva è sempre brutto. Chi lo prova, chi lo passa, è brutto sempre. È una situazione da non augurare a nessuno. Anche perché durante la pandemia ci siamo accorti che c'è stato anche, come dire, abbiamo scoperto che c'è stata anche una fragilità dal punto di vista sanitario, dal punto di vista di tutto il tessuto territoriale italiano. Quindi, come dire, anche la sanità deve dare quella spinta, cioè la medicina deve essere una medicina che aiuti comunque il prossimo, cioè la vita umana. Non diventi un business della medicina, come dice, la sanità è anche un diritto, cioè il diritto alla vita è un diritto che non deve essere tolto a nessuno, vero? Non giusto, cioè ci sono problemi di salute di queste persone perché dopo tanto tempo nei lager libici, torture, tutto quanto, poi arrivano in nave, su una barca e queste persone comunque devono essere aiutate, cioè anche dal punto di vista sanitario, anche per una, come dire, vanno aiutate sia per loro che per noi, perché, come dire, bisogna creare una prevenzione anche sanitaria che è importante, vero? Certo, ma sanità in senso globale, che io da quel che vedo penso che il migrante in genere di salute stia bene, tranne alcuni casi, ecco, di scabbia, di tubercolosi. Parlo del 2016 quando c'era stato un grosso arrivo a Como di migranti che sbarcavano a Lampedusa e dintorni e poi subito si precipitavano al confine per passare in Germania. Allora ci sono stati dei casi di scarbi, ma in genere la popolazione migrante Sì, no, sta io intendevo bene, anche cioè questo, chi è cioè se noi malato. abbiamo delle persone che subiscono una tortura, cioè anche dal punto di vista mentale hanno bisogno di un supporto psicologico, dei medici specialisti che si occupano comunque di questo, cioè abbiamo davanti anche degli esseri umani, cioè noi siamo degli esseri umani, quindi come dire, subire tutto questo è qualcosa che comunque dopo va supportato, e cerca, cioè sono delle ferite che è difficile anche da cancellare, questo dobbiamo sicuramente. Questo è il vero problema, secondo me, la vera fatica è che è quella di ordine psicologico, talvolta psichiatrico, di fronte alla quale si è tuttora, malgrado decenni di migrazioni, si è tuttora impreparati, c'è tutto il mondo magico che Certo, viene certo. Ma poi ci sono anche i bambini soldato dall'altra parte. che comunque sappiamo che scappano da quelle situazioni, soprattutto in Africa, che scappano per vivere. Quindi, cioè, un bambino che nella vita ha avuto un'arma tra le mani, ha visto tante cose che sono sbagliate, subirà tutto questo per tutta la vita. Cioè, per quello io credo che l'unico mezzo è quello di accogliere e di farlo nella maniera giusta. Volevo. Prego, prego, Don Giusto. Aiutare a vivere i traumi che si sono passati, che restano degli incubi, restano delle ferite gravi e profonde che probabilmente non si rimargineranno mai, però riuscire a conviversi con queste condizioni. Volevo, prima di chiudere, volevo parlare, come C'era una dire, quali domanda sono. qua Sì. su YouTube. Vorrei chiedere a Don Giusto e Giulietta cosa pensano degli immigrati in carcere che rappresentano buona parte della popolazione detenuta. Posso rispondere io? Posso rispondere io? Uno dei miei compiti è Prego, prego, prego. andare anche nei carceri dove sono detenuti i cittadini albanesi. E posso, sì, quello che fanno sicuramente, ma non è la maggior parte, sono su 420.000 adesso residenti più 300.000 che hanno avuto la cittadinanza albanese, sono quasi 700.000 albanesi, quelli carcerati sono 1.009, praticamente poi in diminuzione comunque, non è la maggior parte, perché mi sembra una cosa un po' molto volgare. Comunque, per esempio, a carcere di opera tutti i lavori di manutenzione, praticamente gli operai che lavorano e che mantengono, tutto sono albanesi, fanno corsi di formazione dentro, fanno quando escono fuori comunque hanno o una qualifica di lavoro o comunque sanno, sì, capiscono anche gli errori che hanno fatto, ma come dappertutto. Se no, allora dobbiamo ricordarci anche gli italiani quando sono andati in America che era la mafia, ma questo non c'entra niente. I dati sono questi, su 800.000 albanesi, io calcolo anche quei 200.000 che sono diventati in 30 anni cittadini italiani, di carcerati sono 1.900. Non mi sembra una cosa da dire, sì, è tanto per noi perché è una cosa praticamente che io ci tengo e ci vado, faccio in modo che loro abbiano l'assistenza necessaria e dovuta, però non è, spero di aver risposto alla persona. Giusto. Dal mio punto di vista, i dati vanno esplicitati con più chiarezza. Non è vero che la maggior parte di carcerati sono migranti, sono una parte importante, però se sono un dato sottostante non posso dire, non è certamente, non è certamente la prevalenza. Il problema è perché uno è in carcere, perché cosa ci sta a fare in carcere, come il carcere lo aiuta, lo rieduca, perché uno è in carcere, allora ci sono i, sappiamo bene come funziona in Lombardia, chi controlla il traffico della droga, di compro oro, ecco, sappiamo che c'è un'organizzazione capitanata dall''ndrangheta, e poi ci sono dei settori che vengono lasciati portare avanti alle altre mafie, nigeriane, albanesi, rumene, eccetera, eccetera. Sappiamo bene chi gestisce i pezzi grossi in carcere, non ci finiscono, magari i nigeriani, i gambiani che fanno il piccolo spaccio e hanno un accumulo di condanne e poi finiscono dentro. Ecco, si tratta, e noi li ospitiamo anche in uscita dal carcere, ecco, si tratta di ragazzi che potevano avere una fortuna diversa nella loro vita, se avessero trovato anche chi si occupava di loro, parlo degli ultimi arrivati, in modo diverso, in modo più umano, in modo più educativo, in modo affettivo, più coinvolgente. Ecco, certe persone arrivate magari 4-5 anni fa con dei buoni tempi, poi la vita gli è andata, si ritrovano a spacciare, non sanno fare nient'altro che questo, poi sono anche dipendenti, vanno in carcere, entrano, escono, e cosa si riesce a fare in carcere per loro. Poi ci sono Certo, anche perché altri anni. volevo dire, Don Giusto, anche il carcere serve comunque a rieducare, però credo che sia importante soprattutto la prevenzione, perché nel caso in cui ci fosse, come dire, del lavoro oppure un inserimento sociale, non ci potrebbero essere questi problemi, quindi delle volte anche rimanere soli può portare a queste situazioni, no? Come dire, non per giustificare assolutamente, però attraverso, io credo, delle metodiche si possono prevenire questo, se ci fosse il lavoro, ci fosse un'integrazione vera e propria, soprattutto anche un'istruzione, no? Quindi sarebbe anche questa una risposta, che ne pensate? Vero Lurieta, vero Don Giusto? Generalizzare, non bisogna mai generalizzare, anche perché diceva bene Lulieta, siamo stati anche noi che siamo andati all'estero e non è stato facile per noi, però, come dire, c'è il bravo e il cattivo dappertutto, non è che adesso dobbiamo, come dire, creare uno stereotipo della persona, no, assolutamente, c'è tanta brava gente che è arrivata sul nostro territorio, ha deciso di vivere nel nostro territorio e contribuisce allo sviluppo sociale e economico del nostro territorio, quindi, come dire, io credo, sono del parere, poi una mia posizione che spero condividiate anche voi, che nel momento in cui si instaura la possibilità di offrire un lavoro, un inserimento sociale, sicuramente si andrebbe a non creare queste cose, perché questo è, come dire, un fallimento anche da parte delle istituzioni quando una persona poi si trova ad andare in carcere, cioè come può succedere dappertutto, vero? È vero, però attenzione, ci sono anche alcune persone che scelgono di vivere in 3 giorni di spaccio guadagni più di 3 mesi di stipendio, quindi c'è gente che viene appositamente in Italia per delinquere. Ma ripeto, guardiamo un po' la regia che c'è dietro tutto questo, perché il grosso di chi è in carcere c'è Certo, reati assolutamente. legati allo spaccio, al furto. Quindi un panorama molto molto variegato, vanno viste le varie connessioni tra le mafie di provenienze diverse che sono tra loro organizzate in Italia. Siamo quasi alla fine, è stata una bella discussione. E Lulieta, quali potrebbero essere i mezzi, i metodi per favorire una vera e propria integrazione e uno sviluppo di questa immigrazione, quindi di questa accoglienza, cioè l'istruzione, abbiamo tanti di quei mezzi. Cosa bisognerebbe fare? Una tua idea. Solo mettere in atto quello che è stato firmato, praticamente tutto quello che è stato detto è scritto da mettere in atto, praticamente tutto, i corridoi umanitari, la legge, la burocrazia, le sanatorie, le pratiche burocratiche, i ricongiungimenti, fare agevolare le pratiche, non c'è, no? Perché tutto quello che si può fare, la gente l'ha detto, l'ha scritto, i governi hanno fatto gli accordi vanno mantenuti e rispettati. Non è che dobbiamo inventare nulla, perché Eureka è stata già da un po', anche è stato firmato la legge Eureka, però se non nessuno non va a andare a fondo a questa cosa, a mandare avanti, io penso che non ce ne sono tante cose da fare se non sviluppare tutti questi accordi, fare in modo che si dia la voce dove non c'è voce, si dia la possibilità di poter andare avanti. Non so, Don Giusto, Certo. cosa ne pensi tu? Perché io non saprei dare una mia idea, però dico che se questo che c'è scritto, se le leggi sono state fatte, gli accordi sono stati firmati, una volta che queste cose vanno in fondo, non dovrebbe esserci poi dopo. Poi ognuno di noi fa la sua parte, prendere le responsabilità, ognuno io prendo per la mia comunità, poi faccio di tutto perché le cose siano. Per esempio, andrò in carcere dai carcerati a fare dei corsi di formazione. No, la prendo scherzamente, perché parlare di un'ora e mezza di migrazione, di rifugiati, di guerre, poi parlare di carcerati che sì, devono anche scontare la loro pena perché ce l'hanno fatto. Poi ci sono anche chi ha fatto anche non volontariamente, poi chi ha fatto altre cose così. Però non, sicuramente non va a noi giudicare, cioè No, non non bisogna. spetta a noi No. giudicare, assolutamente. Quindi, come dire, io credo che il popolo albanese sia un popolo stupendo, un popolo comunque che una grande stima del popolo albanese, e io sono proprio felice che lei è stata qui, che Giulietta sia stata insieme a noi. Quindi, assolutamente, è una comunità integrata che comunque promuove lo sviluppo sociale e economico del nostro territorio, e lo continua a fare. Quindi tanti, tanti ragazzi giovani sono integrati, cioè tante persone sono integrate, hanno cittadinanza. È quello che dovrebbe accadere adesso con questa nuova accoglienza che sta accadendo. Invece di respingere, secondo me bisogna, come dire, accogliere e cercare di non avere paura, ma affrontare l'immigrazione, perché la paura ti chiude e prima o poi comunque subisci. Invece, come dire, è importante riuscire a trovare i mezzi, perché alcune cose non accadono. Prima ho parlato del fatto, diciamo, del carcere, cioè quando una persona poi viene detenuta siamo arrivati anche alla fine. Noi cerchiamo in tutti i modi di prevenire, di cercare di valorizzare. È come, per esempio, diciamo, un tossicodipendente non va mai disprezzato, anzi è sempre un essere umano che va aiutato, cioè noi dobbiamo cercare di recuperare la vita delle persone, non di distruggerla, cioè assolutamente, perché quando poi una persona è finita è stata anche una sconfitta per la società. Quindi quello che bisogna fare è soprattutto valorizzare le persone, cercare di recuperare le persone, come i ragazzi difficili, sono tanti ragazzi che nascono in ambienti complicati. e subiscono le comunità, tante cose, però il nostro scopo è anche quello di recuperare, cioè l'obiettivo principale, cioè, come dire, nella vita si può sbagliare, ma uno si può sempre rifarsi, no? Assolutamente. Don Giusto, tu come la pensi? Sì, certamente su questo bisogna lavorare molto sulla prevenzione, sull'accompagnamento di chi vive nel disagio, poi nel disagio possiamo trovarci dentro un po' tutti, no? Tutti quanti noi si può cadere un momento di fragilità, di depressione. Ecco, rispetto all'integrazione, io penso che è qualcosa che va un po' inventato, ecco, non è che uno debba integrarsi in un modo di pensare, di vivere. Ma nell'incontro di persone di razze, popoli, lingue e religioni diverse, ecco, qualcosa di nuovo che nasce. E con questo qualcosa di nuovo ognuno deve avere innanzitutto le radici profonde, no? Che il mondo da cui proviene, la religione, la cultura da cui proviene, quindi radici profonde, deve conoscere, sapere chi è, la propria identità di popolo e di persone. Poi c'è la novità che deve nascere nell'incontro. Se noi proponiamo un certo modello di vita, non so, il modello di vita appartato, il modello di vita di chi cerca a tutti i costi la sicurezza per sé, ecco, questo mi auguro che nessuno ci entri, si integri Certo, in certo. questo mondo. Poi penso anche sia importante ascoltare la voce di tutte le comunità organizzate, di tutte le entità etnico-religiose organizzata, come questo non succede da parte di chi amministra la città, di chi governa la città, ma perché non far fede a quanto Quindi è dicono le importante anche un comunità appello alle turche, istituzioni, Don perché Giusto. Un appello alle istituzioni, perché sono, devono essere le prime. Comunque, lei è un volontario, cioè tu sei un volontario, Don Giusto, e ti dai da fare, però c'è bisogno anche comunque di prendersi carico di tutto quanto, che è importante, cioè non si può far finta di nulla, no? Perché nessuno gli viene in mente di andare ad ascoltare la comunità turca di Como, che cosa vive, che gioie, che fatiche vive, come si pensa per il futuro. Se tu ascolti, poi ti si aprono davanti tanti orizzonti, parlo a chi amministra la città soprattutto, no? Perché non crei un ponte anche per vivere situazioni di disagio con le diverse comunità, no? Se in Tunisina in difficoltà, perché non ti rivolgi anche alla comunità tunisina che è organizzata in un luogo di culto, parlo di Como, no? Creiamo questi ponti, no? Che è così facile creare, perché c'è la disponibilità, da quanto vedo io, in tutte quante le comunità migranti, al dialogo, all'incontro, quanti inviti, no? Riceviamo anche Certo, noi per andare alle feste, quanti fanno, no? Per trovarsi insieme a festeggiare. certo. Va benissimo. Stiamo per chiudere. Volevo, prima di salutarci, volevo dare la parola a Raffaele Faggiano per quanto riguarda il corso di giornalismo Ah, che sì. sta tenendo su Radio Ah. Arcinerus. Prima, se Bravo. vuoi ricordarlo Sì. comunque ai nostri telespettatori. Sì, voglio ricordarlo che abbiamo fatto i primi tre incontri, che adesso, anzi, abbiamo il terzo incontro questo giovedì, il terzo incontro con Miriana sull'utilizzo della voce, e poi ci saranno una serie di incontri con giornalisti vari, tra cui ci sarai anche tu, mi pare, no? Sì, ci sei anche tu, l'8 Sì, l'8 novembre. ci sono anche L'8 io. novembre, il 19 novembre c'è Walter Morganella, italo-argentino, speaker radiofonico, professionista dall'87. Il 22 novembre Gian Giacomo Migone, che è politico e giornalismo. E poi ci saranno una sorpresa che uscirà domani. Allora, una bella serata, abbiamo passato una bella serata insieme, abbiamo parlato di un argomento molto importante. Don Giusto, io scriverò un articolo per quanto riguarda l'attività che fai, prova a contattarti qualche giorno, forse eri Appoggia il impegnato. telefono in giro. C'era il grande telefono in giro, prova a chiamare Oh, due volte, tre volte, non mi hai risposto, poi ti ho mandato un messaggio che Raffaele mi ha dato il suo numero. Se non mi rispondi ti vengo a trovare, perché quello che fai è qualcosa, l'ho fatto già con l'Ulieta, un articolo bellissimo. È veramente emozionante, uno dei articoli più belli. Bello scrivere soprattutto per la solidarietà. E quindi ne vale la pena far conoscere questa realtà, perché è un bel esempio. Quindi, come si dice, delle volte nella vita è quello, non è quello che fai, ma è quello che lasci, che è importante. Io vi ringrazio, ringrazio Lulieta che sei stata insieme a noi per tutto qua. E voglio ringraziare anche Don Giusto della Valle, è stato veramente un grande piacere. Spero di rivederci presto. E un grazie anche a Raffaele Faggiano, che è presidente del Arcinerus, che è stato paziente e ci ha dato la possibilità per dar vita a questa trasmissione. E poi noi ci rivediamo con nuovi argomenti che riguardano sempre questo e tanto altro, vero Raffaele o no? Certamente, sarà bellissimo. Grazie, Ciao. buona serata a tutti, buona serata a tutti i nostri telespettatori.